Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Il lungo periodo di tempo che seguì, fino ai fatali ultimi giorni dell'agosto 39, fino alla vigilia dell'invasione nazista della Polonia e della Drôle de Guerre, lo ricordo come una specie di lenta, progressiva discesa nell'imbuto senza fondo del Maelstrom. Eravamo rimasti in quattro, io, Nicole, Alberto e Malnate, soli padroni del campo di tennis, che presto era stato ricoperto da una buona spanna di terra rossa di Imola. Su Bruno Lattes, presumibilmente perduto dietro le tracce dell'Adriana Trentini, non c'era da contare. Variamente accoppiati, impiegavamo interi pomeriggi in lunghe partite di doppio, con Alberto, anche se a corto di fiato e stanco, sempre pronto, chissà perché, a ricominciare, a non darsi e a non darci mai tregua. Perché mi ostinavo a ritornare ogni giorno in un luogo dove, lo sapevo, non avrei potuto raccogliere che umiliazioni e amarezza? Non saprei dirlo esattamente. Forse speravo in un miracolo, in un brusco cambiamento della situazione, o forse, magari, andavo proprio in cerca di umiliazioni e di amarezza. Giocavamo a tennis, sdraiati nei rari intervalli concessi da Alberto, su quattro chaise longue allineate all'ombra, dinanzi alla hutte. Discutevamo, soprattutto io e Malnate, dei soliti argomenti d'arte e di politica. Ma quando poi proponevo a Nicole, rimasta in fondo gentile con me e talora perfino affettuosa, un giro nel parco, era ben raro che lei dicesse di sì. Se acconsentiva, non mi seguiva mai volentieri, ma atteggiando il viso a un'espressione tra il disgusto e la degnazione, che mi induceva di lì a poco a rimpiangere di averla trascinata lontano da Alberto e da Malnate. Eppure non disarmavo, non mi rassegnavo. Diviso fra l'impulso di rompere, di sparire per sempre, e l'altro opposto di non rinunciare ad esserci, di non cedere a nessun costo, finivo in pratica col non mancare mai. A volte, è vero, era sufficiente uno sguardo di Nicole più freddo del solito, un suo gesto di impazienza, una smorfia di sarcasmo o di noia, e allora credevo con piena sincerità di aver deciso e troncato. Ma quanto resistevo a star lontano? 3-4 giorni al massimo. Al quinto, eccomi di nuovo là, ostentando la faccia ilare e disinvolta di chi ritorna da un viaggio. Parlavo sempre di viaggi, ricomparendo. Viaggi a Milano, a Firenze, a Roma. E meno male che tutti e tre loro avessero abbastanza l'aria di credermi. Ma col cuore esulcerato e con gli occhi che ricominciavano subito a cercare in quelli di Nicole una impossibile risposta. Era quella l'ora delle scenate coniugali, come le chiamava Nicole, durante le quali, se se ne presentava l'occasione, tentavo anche di baciarla. E lei sopportava molto pazientemente. Non era mai sgarbata. Una sera di giugno, tuttavia, circa a metà del mese, le cose andarono peggio. Ci eravamo seduti uno accanto all'altro sui gradini esterni della hütte, e benché fossero già le 8, ci si vedeva ancora. Scorgevo Perotti in distanza, affaccendato a smontare e a rotolare la rete del campo di tennis, il cui terreno, da quando era arrivata dalla Romagna la nuova polvere rossa, non gli sembrava mai curato a sufficienza. E anche questo era strano da parte sua. Malnate stava facendo la doccia nell'interno della capanna. Lo sentivamo alle nostre spalle soffiare rumorosamente sotto il getto dell'acqua calda. Alberto si era accomiatato poco prima con un melanconico bye bye. Eravamo rimasti noi soli, insomma, io e Nicole. E subito ne avevo approfittato per riattaccare col mio noioso, assurdo, eterno assedio. Come sempre, insistevo nel tentativo di persuaderla che aveva avuto ed aveva torto a ritenere inopportuno fra noi un rapporto sentimentale. Come sempre, l'accusavo, in malafede, di avermi mentito quando, nemmeno un mese avanti, mi aveva assicurato che fra me e lei non c'era di mezzo nessun altro. Secondo me, qualcuno di mezzo c'era, invece, o perlomeno c'era stato, a Venezia, durante l'inverno. Ti ripeto per l'ennesima volta che ti sbagli, diceva Micol sottovoce. Però so che è inutile. So benissimo che domani tornerai alla carica con le stesse storie. E cosa vuoi che ti dica? Che tresco segretamente? Che ho una doppia vita? Se proprio non vuoi altro, posso anche accontentarti. No, Micol, rispondevo io, a voce altrettanto bassa, ma più concitata. Sarò tutto, un masochista però no. Se tu sapessi, viceversa, come sono normali, terribilmente banali, le mie aspirazioni. Ridi pure, se ti piace. Se c'è una cosa, tuttavia, che desidererei, sarebbe unicamente questa, sentirti giurare che quello che mi hai detto è vero e crederti. Per me, te lo giuro subito, ma mi crederesti? No. Tanto peggio per te, allora. Certo, sì. Tanto peggio per me. Ad ogni modo, se potessi davvero crederti, che cosa faresti? Sentiamo. Oh, cose sempre molto normali, banali. Ecco il guaio. Queste, per esempio. Le afferrai ambedue le mani e presi a coprirgliele di baci e di lacrime. Per un po' mi lasciò fare. Nascondevo il viso contro i suoi ginocchi e l'odore della sua pelle liscia e tenera, leggermente salata, mi stordiva. La baciai, lì, sulle gambe. «Adesso basta», disse. Sfilò le mani dalle mie e si alzò in piedi. «Ciao, ho freddo», proseguì. «Bisogna che rientri. Sarà già pronto in tavola e devo ancora lavarmi e vestirmi. Alzati su, non comportarti come un bambino». «Addio», gridò quindi, volgendosi verso la hütte. «Io vado». «Addio», rispose dall'interno Malnate. «Grazie». «Arrivederci. Vieni domani?» «Domani non so. Vediamo». Ci incamminammo in direzione della Magna Domus, alta e scura, nell'aria piena di zanzare e di pipistrelli del tramonto estivo, divisi dalla bicicletta al cui manubrio mi aggrappavo spasmodicamente. Tacevamo. Un carro colmo di fieno, tirato da un paio di buoi aggiogati, veniva in senso contrario al nostro. Issato in cima al fieno c'era uno dei figli di Perotti, il quale, incrociandoci, ci augurò la buonasera e si tolse il berretto. Anche se accusavo Micol in malafede, senza crederci, avrei voluto gridarle ugualmente che la piantasse di fare la commedia, insolentirla, prenderla magari a schiaffi. Ma poi, che cosa ne avrei ricavato? Fu qui, però, che sbagliai. «È inutile che neghi», dissi. «Tanto so anche chi è la persona». Avevo appena finito di pronunciare queste parole, che già me ne ero pentito. Mi guardò seria, addolorata. «Ecco», disse. «E adesso, secondo le tue previsioni, dovrei magari sfidarti a dichiarare in tutte lettere il nome che hai in serbo nello stomaco, seppure ce l'hai. Basta così, comunque. Non voglio sapere altro. Soltanto che, arrivati a questo punto, ti sarei grata se d'ora in poi tu fossi un po' meno assiduo. Sì, se insomma tu venissi a casa nostra meno spesso. Te lo dico francamente. Se non temessi di suscitare delle chiacchiere in famiglia, come mai, perché mai, eccetera, ti pregherei addirittura di non venir più, mai più». «Scusami», riuscii a mormorare. «No, non posso scusarti», disse lei scuotendo il capo. «Se lo facessi, tra qualche giorno ricominceresti». Aggiunse che il mio modo di condurmi da molto tempo in qua non era dignitoso, né per me né per lei. Lei mi aveva detto e ripetuto mille volte che era inutile, che non cercassi di trasferire i nostri rapporti su un piano diverso da quello dell'amicizia e dell'affetto. Ma che, appena potevo, io, al contrario, le venivo addosso con baci e altro, come se anch'io non sapessi che in situazioni come la nostra non c'è niente di più antipatico e controindicato. Santo Iddio, ma possibile che non riuscissi a trattenermi? Ci fosse stato fra noi in precedenza un legame fisico un po' più profondo che non quello determinato da qualche bacio, allora sì che, magari, lei avrebbe potuto anche capire che io, che lei mi fosse entrata, per così dire, nella pelle. Ma dati i rapporti che erano sempre intercorsi fra noi, La mia smania di abbracciarla, di strusciarmi contro di lei, non era il segno, probabilmente, che d'una cosa sola, della mia sostanziale aridità, della mia costituzionale incapacità a voler bene veramente. E poi andiamo. Che cosa significavano le improvvise assenze, i bruschi ritorni, le occhiate inquisitorie o tragiche, i silenzi immusoniti, gli sgarbi, le insinuazioni cervellotiche, tutto il repertorio di atti inconsulti e imbarazzanti che esibivo di continuo, senza il minimo pudore. Pazienza, se le scenate coniugali le avessi riservate esclusivamente a lei, in separata sede, ma che anche suo fratello e Giampi Malnate dovessero essere spettatori, questo no. No e poi no. «Mi pare che adesso esageri», dissi. «Quando mai, davanti a Malnate e Alberto, ti ho fatto delle scene?» «Sempre, continuamente», ribatté. «Quando tornavo dopo una settimana di assenza, proseguì, dichiarando non so che ero stato a Roma e intanto giù a ridere, certe risate nervose, da pazzo, senza nessuna ragione. Mi illudevo forse che Alberto e Malnate non lo capissero, che stavo raccontando delle balle, che a Roma non c'ero stato affatto e che i miei scoppi di ilarità tipo cena delle beffe era a lei che li dedicavo. E nelle discussioni, quando saltavo su a berciare e a inveire come un ossesso, creando di continuo casi personali, un giorno o l'altro il Giampi avrebbe finito con l'arrabbiarsi e non avrebbe avuto tutti i torti, poveretto anche lui. Che cosa pensavo? Che la gente non se ne accorgesse che era lei e non altra la causa, sia pure incolpevole, delle mie scalmane?» «Ho capito», dissi, chinando il capo. «Ho proprio capito che non vuoi più vedermi». «La colpa non è mia. Sei stato tu a diventare a poco insopportabile. Hai detto», balbettai dopo una pausa, «hai detto però che posso, anzi, che devo tornare ogni tanto, non è vero?» «Sì». «Beh, allora decidi tu. Come regolarmi per non sbagliare? Ogni quanto devo farmi vedere?» «Ma non so», rispose alzando le spalle. «Direi che intanto dovresti lasciar passare almeno una ventina di giorni. Poi ricomincia pure a venire, se ci tieni, ma ti prego, anche dopo, non farti vedere più di due volte alla settimana. Il martedì e il venerdì va bene? Come a lezione di pianoforte?» «Stupido», borbottò, sorridendo suo malgrado. «Sei proprio uno stupido». Sebbene, specie da principio, lo sforzo fosse durissimo, mi feci una sorta di punto d'onore di sottostare scrupolosamente ai divieti di Micol. Basti dire che, essendomi laureato il 29 di giugno, ed avendo immediatamente ricevuto dal professor Ermanno un caldo bigliettino di felicitazioni nel quale era contenuto, tra l'altro, un invito a cena, credetti opportuno rispondere di no, che mi dispiaceva, ma non potevo. Scrissi che avevo mal di gola e che il papà mi proibiva di uscire la sera. La ragione vera del mio rifiuto, tuttavia, era che dei 20 giorni di esilio impostimi da Micol ne erano trascorsi soltanto 16. Lo sforzo era durissimo e speravo che presto o tardi trovasse qualche compenso, si capisce. Però vagamente, senza affatto contarci su tale compenso, contento per ora di obbedire a Micol e di restar legato attraverso l'obbedienza a lei e ai luoghi paradisiaci dai quali ero stato temporaneamente bandito. Riguardo a Micol, poi, se prima avevo avuto qualcosa da rimproverarle, adesso più niente. Ero io l'unico colpevole, l'unico che dovesse essere perdonato. Quanti sbagli avevo commesso, mi dicevo. Ricordavo una per una tutte le volte che, spesso con la violenza, ero riuscito a baciarla sulla bocca, ma soltanto per dar ragione pienamente a lei, che, pur respingendomi, mi aveva sopportato così a lungo, e per vergognarmi della mia libidine da satiro, mascherata di sentimentalità e di idealismo. Trascorsi i 20 giorni, mi azzardai a riapparire, d'allora in poi sempre attenendomi disciplinatamente a due visite settimanali. Ma Micol non discese per questo dal piedistallo di purezza e di superiorità morale su cui, da quando ero partito per l'esilio, l'avevo collocata. Essa continuò a rimanerci, lassù. Io, per me, mi consideravo fortunato di essere stato riammesso ad ammirarne ogni tanto l'immagine lontana, bella di dentro, non meno che di fuori. Come la verità, come essa, triste e bella. Questi due primi versi di una poesia che non finii mai, benché scritti più tardi, subito dopo la guerra, si riferiscono alla Micol dell'agosto del 39, a come la vedevo allora. Cacciato dal paradiso, non m'ero ribellato dunque, attendendo in silenzio di esservi riaccolto. Ciò non di meno soffrivo, certi giorni atrocemente. Ed era stato all'unico scopo di alleviare in qualche modo il peso di una separazione e di una solitudine spesso intollerabili che, circa una settimana dopo il mio ultimo disastroso colloquio con Micol, avevo avuto l'idea di andare in cerca di Malnate, di mantenere i contatti almeno con lui. Sapevo dove trovarlo. Anche lui, come un tempo il professor Meldolesi, abitava nel quartiere di Villini, situato fuori Porta San Benedetto, fra il canile e la zona industriale. Il quartiere, a quei tempi, era di gran lunga più solitario e distinto di adesso, stravolto come è stato in questi ultimi 15 anni dalla più sfrenata delle speculazioni edilizie. Le villette, tutte a due piani e dotate ognuna di un giardino non grande ma grazioso, appartenevano a magistrati, insegnanti, funzionari, impiegati comunali, che a passare per di là, specialmente nei tardi pomeriggi estivi, non era difficile scorgere attraverso le sbarre di irte cancellate, intenti in pigiama a innaffiare, a potare, a sarchiare alacremente. Il padrone di casa di Malnate, un certo dottor Lalumia, se non ricordo male il nome, era appunto un giudice del tribunale. Un siciliano sui 50 anni, magrissimo, con una gran zazzera grigia, il quale, non appena si accorse di me che, sollevandomi sui pedali della bicicletta e afferrandomi con tutte e due le mani alle lance del cancello, curiosavo dentro il giardinetto, posò subito per terra il tubo di gomma di cui si serviva per dar acqua alle aiuole. «Desidera?» chiese muovendo verso il cancello. «Sta qui il dottor Malnate?» «Qui abita, perché? È in casa?» «Chi lo sa? Ha un appuntamento?» «Sono un suo amico. Passavo di qui e ho pensato di fermarmi un momento a salutarlo.» In questo frattempo il giudice aveva finito di percorrere la decina di metri che ci separavano. Ora vedevo soltanto la parte superiore del volto ossuto, fanatico, e gli occhi neri, pungenti come spilli, affioranti oltre l'orlo della lamiera che fasciava ad altezza d'uomo le lance del cancello. Mi scrutava con evidente diffidenza. Tuttavia l'esame dovette concludersi a mio favore, perché quasi subito la serratura scattò e potei entrare. «Vada pure da quella parte», disse finalmente il giudice, levando il braccio scheletrico, «per il marciapiede che gira dietro la villa. La piccola porta a pian terreno è quella dell'appartamento del dottore. Suoni il campanello. Può darsi che il dottore ci sia. Se non c'è, la porta le verrà ugualmente aperta dalla mia signora, che in questo momento dovrebbe trovarsi appunto da basso a preparargli il letto per la notte.» Ciò detto, mi volse le spalle, tornando, senza più curarsi di me, al suo tubo di gomma. Invece che Malnate, sulla soglia della porticina indicatami dal giudice Lalumia, comparve un maturo, biondo, straripante donnone in vestaglia. «Buonasera», dissi. «Cercavo il dottor Malnate.» «Ancora non è rientrato», rispose tutta gentile la signora Lalumia. «Comunque, non dovrebbe tardare. Quasi ogni sera, appena uscito di fabbrica, va a giocare al tennis in casa dei signori Finzicontini. Sa, quelli che stanno in corso Ercole I. Da un momento all'altro, però, come dico, dovrebbe essere qui. Prima di cena, sorrise, abbassando rapita le palpebre, prima di cena passa sempre da casa a vedere se c'è della posta.» Dissi che sarei ritornato più tardi e feci per riprendere la bicicletta che avevo appoggiato al muro, di fianco alla porta. Ma la signora insistette perché rimanessi. Volle che entrassi, che mi accomodassi su una poltrona e intanto, in piedi davanti a me, mi informava di essere ferrarese, ferrarese puro sangue, di conoscere benissimo la mia famiglia e mia madre, soprattutto, la sua mamma, della quale qualcosa come 40 anni fa, e così dicendo tornò a sorridere e ad abbassare dolcemente le palpebre, era stata compagna di classe alle scuole elementari Regina Elena, quelle vicine alla chiesa di San Giuseppe, in Carlomair. «Come stava la mamma?» domandò. «Non dimenticassi di salutarla, per favore, da parte dell'Edvige, l'Edvige Santini, che lei avrebbe capito certamente». Accennò agli imminenti pericoli di guerra, alluse con un sospiro e scuotendo la testa alle leggi razziali, dopodiché, chiesto permesso, rimasta da qualche giorno priva dell'ancella, doveva pensare lei a tutto, cucina compresa, mi lasciò solo. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.